Questo è l'appuntamento con le principali notizie del giorno scelte dalla redazione di domani. Benvenuti. Tutta Italia in zona arancione oggi e domani. Poi da lunedì le regole cambiano da regione a regione. L'ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti stabilito che si torna alla classificazione delle regioni per colore. Fino al 15 gennaio Veneto, Calabria, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia saranno in zona arancione, tutte le altre saranno invece in zona gialla. In zona arancione ci si può spostare soltanto all'interno del proprio comune, almeno che non ci siano motivi di salute, lavoro e necessità che giustifichino il viaggio. Bar e ristoranti sono aperti solo per l'asporto e la consegna a domicilio, mentre restano aperti i negozi. È arrivata venerdì l'ufficialità della nomina di Letizia Moratti nella giunta regionale della Lombardia. Avrà il doppio ruolo di vicepresidente al posto di Fabrizio Sala e di assessore a welfare al posto di Giulio Gallera. Queste le sue prime parole dopo la nomina. Da questa emergenza vogliamo, dobbiamo, possiamo uscire se saremo uniti, quindi lavorando tutti insieme, lavorando con i medici, con gli infermieri, con tutte le professioni sanitarie. Gli ultimi dati Istat registrano una crescita degli occupati nel mese di novembre, con più 0,3% rispetto al mese precedente. In aumento il numero degli inattivi, che crescono dello 0,5%, mentre cala la disoccupazione giovanile, che si assesta al 29,5%. Con una decisione senza precedenti, Twitter ha sospeso definitivamente l'account dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È quanto si legge in una nota della società. Nei giorni scorsi l'account del presidente era già stato sospeso da Twitter per 12 ore, mentre Facebook aveva deciso una sospensione più lunga, di almeno 2 settimane. Nel frattempo la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato che verrà chiesto l'impeachment per Trump, forse già lunedì. La Cina ha criticato duramente gli Stati Uniti dopo l'annuncio da parte del segretario di Stato, Mike Pompeo, dell'invio a Taiwan dell'ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite. Vogliamo ricordare agli Stati Uniti che chi gioca con il fuoco si brucia. Gli Stati Uniti pagheranno un prezzo pesante per la loro azione sbagliata, ha detto un portavoce della delegazione cinese all'ONU. In Pakistan una corte antiterrorismo ha condannato alla pena di morte 3 cittadini. Avevano condiviso insulti contro il profeta Maometto sui loro account social. Un quarto imputato, un professore universitario, è stato invece condannato a 10 anni di carcere. È accusato di aver tenuto una lezione considerata blasfema. È morta a 91 anni nel Maine l'architetto statunitense Carol Johnson, pioniera dell'architettura del paesaggio, si è occupata soprattutto della progettazione di spazi verdi nelle città. Dal 1966 al 1973 è stata docente ad Harvard, dove si era laureata. E su Domani in edicola domenica 10 gennaio troverete un lungo approfondimento sulle scuole con i dati curati da Filippo Teoldi. Il giornale si può leggere anche sull'app e sullo sfogliatore sul sito. Ci si può abbonare andando su www.editorialedomani.it/abbonamenti. E con questo è tutto, almeno per il momento.